2016. Segundo encuentro de cibercultura crítica y nuevos medios de Bilbao. Del 10 al 18 de noviembre del 2006. Cibercultura crítica y nuevos medios. Cibercultura Reality Hacking, Nuevos Medios, Net Radios, Biotecnología, Software Libre, Activismo Mediático, Cultura Hacker, Comunidades Virtuales, Science Arts, Robótica, Blogósfera, Teles Libres, Redes Inalámbricas, netplus.org. Ok, siccome la discussione di prima penso che ci ha molto stimolato, a me sinceramente ha molto stimolato, mi ha fatto ricordare cose vecchie che abbiamo scritto anni e anni fa quando la nostra esperienza è cominciata, più o meno ci siete? Bueno, la discussione okay. De antes, que la discusión de antes ha estimulado el recuerdo de algunas líneas escritas unos años atrás. Noi abbiamo cominciato la nostra esperienza fondamentalmente conoscendoci durante i tecnoparchi, durante i rave illegali, in zone abbandonate che venivano rioccupate e per un giorno, due giorni, tre giorni fatte rivivere e riempite di segni. Bueno, la experiencia del grupo empezó en tecnoparty, en fiestas ilegales y en sitios en que se hacía mucha actividad simbólica, ¿no? Questo ancora prima del 2000, insomma. Là ci siamo conosciuti, cioè chi di noi che veniva da esperienze di teatro di strada, chi veniva da telematica subversiva, chi veniva da esperienze di radio libere. Ci siamo, più o meno? Bueno, procedencias distintas de todos los miembros del grupo, de lo que habéis entendido, creo, ¿no? Una delle prime volte che ci siamo incontrati abbiamo scritto giù un po' di cose insieme. Sentendo la discussione di prima, subito mi è venuto in mente un pezzetto che avevo scritto, l'ho ritrovato, che vi devo leggere, perché mi sembra che ci sia perfettamente a pennello, calzi proprio a pennello, rispetto a quello che vi ho detto prima. Ci siamo? Sì, no. Es que, bueno, he encontrado un texto scritto en esa temporada de que hablábamos antes, en que... 99 y que parece encajar muy bien con el asunto de que hablábamos antes. Dice così. Le ultime teorie nel campo della critica dei media e della metafisica della presenza elettronica. Las últimas teorías en el campo de la crítica de los medios y de la metafísica de la presencia electrónica. Riflettendo sull'incarnazione del postmoderno nella cultura pop. Reflexionando sobre la encarnación del postmoderno en la cultura pop. Osservano che l'esponenziale intrusione della televisione e delle nuove tecnologie comunicative nella nostra vita di utenti e telespettatori. Osservano che la esponenziale intrusione, si intende, della televisione e delle nuove tecnologie comunicative nella nostra vita di utenti e spettatori. Conduce ad un processo di esorcizzazione del soggetto umano. Induce a un processo di esorcizzazione del soggetto umano. Dove una volta c'era una stabile coscienza umana, ora ci sono solo fantasmi di decentrate, frammentate e sempre più schizofreniche soggettività. Donde una vez existía una estable conciencia humana, ahora hay solo fantasmas de centradas, fragmentadas y siempre más esquizofrénicas subjetividades. Dove una volta c'erano significato e storia, c'è ora solo un paesaggio infestato da significati vaghi e scivolosi. Donde una vez estaban significado y historia, ahora hay solo un paisaje infestado de significado. De significados vagos y resbaladizos. La distruzione di questo reale storico non potrebbe che farci gioire con lo sguardo puntato su fantasmagoriche cyber architetture in espansione che narrano di liberazione disincarnata e emancipata dalla scendenza. La distruzione de esto real histórico, de esta realidad histórica, no podría que hacernos, no sé cómo se dice, darnos alegría, ¿no? Alegrarnos con la mirada apuntada sobre fantasmagóricas y cyber, fantasmagóricas cyber arquitecturas en expansión que narran de liberación desencarnada y emancipadas trascendencias. In questo concetto di simulazione si perde la metafora della mappa che ricopre il territorio, uno a uno. En este concepto de simulación se pierde la metáfora del mapa que cubre el territorio, uno a uno. Non esiste un reale e la sua rappresentazione. Non esiste un reale e la sua rappresentazione. Non c'è il referente dell'immagine. Il segno sta per sé. Il segno sta per sí mismo. Non c'è referente dell'immagine. Non hai referente per la immagine. Ciò che resta è lo sforzo imperialista dei simulatori dei nostri giorni che tentano di fare in modo che il reale, tutto l'irreale, coincida con i loro modelli di simulazione, costruendo il territorio a partire dalla mappa. Lo che evidentemente queda è el esfuerzo imperialista de los simuladores de nuestros días que intentan hacer que el mundo de hacer en modo que el real, todo el real, coincida con sus modelos de simulación, construyendo el territorio a partir del mapa. I fantasmi che infestano i territori devastati della simulazione possiedono la nostra carne, che ha smarrito la sua soggettività umana. Fantasmas. Los fantasmas que infestan los territorios devastados de la simulación poseen nuestra carne que ha perdido su subjetividad humana, afortunadamente. Ma ci sono alieni e sono in mano ai signori della globalizzazione che aspirano ad una totale circolazione delle merci e ad una definitiva sparizione del corpo umano ridotto a brandelli. Y pero hay alienos y son en manos a los señores de la globalización que aspiran a una total circulación de las mercancías y una definitiva desaparición del cuerpo humano hecho en brandelli. Pezzi. Bueno, destrozado. Ok, questo l'ho trovato, mi sembrava che era all'interno della discussione precedente, poi magari mi sbaglio, non lo so. In base a ciò, sul sito web della Repubblica, che è un giornale mainstream italiano, è stata pubblicata nei giorni passati, è stato trovato un video che era stato pubblicato su Google Video, che riprendeva una scena dentro una classe scolastica dove picchiavano un ragazzo down, un loro compagno di classe. Hai capito? Cosa è successo? Dopo questa pubblicazione io sono andato a fare una ricerca su Google Video, una ricerca molto semplice, cercando classe, e ho trovato che i video più recenti pubblicati erano stati fatti lo stesso giorno, ossia subito dopo che era stato pubblicato questo video di violenza e danni di un ragazzo down, altri ragazzi, studenti con i telefonini hanno ripreso in classe, per finta, per gioco, per scherzo, altre scene di violenza in classe. Hai capito? Que después de la salida del primer video en que se veía la grabación de una paliza de todos a un chico down, han salido otros vídeos inmediatamente después, otros vídeos que mostraban situaciones de violencia y enseguida amplificaron la salida del primero. Ora, nella mia esperienza è stato unto perché noi si chiamiamo Candida. Candida prende il nome da due cose fondamentalmente, da dos cosas. Una è Candida, il virus. Un'altra è il Candido de Voltaire, che voleva vivere nei mejor dei mondi possibili, no? Per quanto riguarda il Candido de Voltaire, è corretto il discorso di prima, della mappa del territorio, del significato e della storia. Per quanto riguarda il virus, ora ci troviamo in un momento in cui siamo passati in una fase che è chiamata Web 2.0. Quando abbiamo cominciato la nostra esperienza era Web 1.0, manco 1.0, quello che noi volevamo e che dicevamo era do it yourself, make your own television. Ora con il Web 2.0 chiunque può far hacer la sua televisione, caricando il video on YouTube, on Google, con un telefonino, girare. Però ora quello che sta succedendo è che, appunto, come dicevamo prima, il discorso che facevamo sulla simulazione e sui simulatori che controllano, questo già sta valendo già ora per quello che è Web 2.0. Noi abbiamo cominciato a dire make your own television, a ser la tua TV, per scappare, per fuggire da questa trappola dei simulatori. Però ora io vedo che i simulatori già ci hanno raggiunto e superato sul nostro terreno. Necesito un sí, vale. Desde el empiezo del discurso los dos significados de Cándida son, uno es el Candide de Voltaire, que es el que imaginaba de vivir en el mejor de los mundos posibles, y el otro es el virus de la Cándida, que conocéis. Y y que cuando empezaron el discurso ellos estaban intentando, el mensaje era do it yourself, hazlo tú con tus propios medios, ¿no? Como virus, ¿no? Sí, de difundir de forma viral esa actividad en frente a los medios, ¿no? Y que de alguna forma eso en esta temporada estratégicamente podía suponer una forma de escapar al control de los simuladores, ¿no? Ajá. Y de los que controlan la simulación. Y él dice que ahora la conclusión a que están llegando, ¿no? ¿Pesimística? Que sí, que no es optimística, es que quizá los simuladores ahora en este mismo terreno han conseguido recogerlos. Okay. ¿Ci siete? Ok, adesso questa charla ho solo per riconnettermi con la charla antes, no? Ora riparto da dove volevo cominciare. Ok. For simulator. Appunto, come dicevo antes, no? I simulatori sono quelli che disegnano, che sulla mappa ci hanno costruito un territorio sui quali ci siamo noi, no? Non siamo noi che viviamo il territorio e lo cambiamo, lo modifichiamo, no? Perché siamo quelli che ci viviamo. C'è chi sta, appunto, che simula come simulatore e costruttore, prende la mappa e in base a questa mappa costruisce. Ovviamente all'interno della mappa ci sono anche le persone, ok? Che sono nel territorio. È chiaro? Scaro? Perché? Sì, necessita traduzione. Sí, es que los simuladores, bueno, es que quizá, forse volevi dire qualcosa di più su chi che per mettere a fuoco che cosa è un simulatore. Lo lasciamo così. Passiamo. Vale, traduzco. Es que traduzco y bueno, añado algo, sí. Es que en la economía del discurso está lo que decía antes, ¿no? Es que ellos proponían una actividad, ¿no? De sujetos que por medio de la intervención en el mundo de la información, entonces el apoderamiento colectivo de los medios, podían conseguir mutar esa realidad. Y que quizá se va enterando de que los que producen los que controlan al alto nivel la producción de simbólica en esta realidad, son ellos que hacen el mapa donde y que nosotros seguimos moviéndonos en este mapa. Okay. il simulatore può dirle chi è che controlla appunto la globalizzazione algo che è perdido en la traducción es que él hablaba también de la capacidad material de transformar el territorio. Eso es, partendo dalla mappa, ¿no? Utilizar el mapa para la stessa cosa che te puoi vedere qui in questa ciudad che stanno costruendo, no? Ma non partendo dall'esigenza del territorio, ma partendo da una mappa, vedendo la mappa costruiscono palazzi, no? Non partendo dall'esigenza del territorio, ok? E di chi il territorio lo vive. È la stessa cosa. Succede nel campo dell'informazione, delle nuove tecnologie, sta succedendo nelle città. Penso forse come vale un esempio. Sí, que las ciudades se hacen a medida de una mirada desde arriba por medio de mapas que caen desde arriba en el territorio y que no se hace mediante una construcción desde abajo, ¿no? De la misma cosa que sucede con la TAV. Se parte que la TAV, c'è la mappa dell'Europa, la TAV passa, ¿ok? E vanno a costruire dalla mappa. Nell'Europa vanno a costruire questa linea che attraversa l'Europa con la TAV. Il tren di alta velocità. Uh-huh. Non partendo dal territorio, ma partendo da una mappa. Sì, non partendo da chi la persona che sta nel territorio, no? E sta in una stanza e decidono che la TAV ora passa a chi, no? Quindi partono da una mappa, non dal territorio. E vanno a modificare il territorio e a modificare la realtà della gente che vive dentro il territorio. La stessa cosa è che succede nel mondo dell'informazione, delle nuove tecnologie. E se prima esso era un discorso che valeva per il web 1.0, col web 2.0, io vedo che sta succedendo, sta cominciando a succedere la misma cosa. Per questo l'esempio del ragazzo down picchiato in classe, col telefonino filmato, messo su video, Google Video, no? L'acquisizione delle metodologie per poter fare da sé, in realtà già sono in mano a chi poi le direziona il modo di utilizzare queste tecnologie. Que, okay. Es que la difusión masiva de tecnologías para producir información de alguna forma está determinada. Ok. Adesso un cappello per di ricollegamento. Candida, quando è nata abbiamo cominciato le nostre avventure prendendo uno spazio su una televisione locale romana, trasmettendo per 9 settimane. L'esperienza di Candida empezó con tomar espacio en una televisión local y un espacio de emisión en una televisión local por 9 semanas. Portando dall'idea del virus, no? Di entrare all'interno del flusso mediatico come un virus, e facendo passare l'idea del do it yourself. Sta chiaro, no? De contagiare il flusso mediatico come un virus, facendo passare questa idea di che todos pueden hacerlo. La trasmissione era il Candida Show ed era uno show, era generalista, era pop, in studio c'era un conduttore e c'erano le vallette, c'erano rubriche varie, ovviamente le rubriche venivano fatte su delle cose che a noi ci stavano a cuore, quindi se lo studio poteva essere demenziale trash, le rubriche cercavano sempre di essere pop, andavano a riguardare delle cose che ci interessavano, a partire dal carcere, perché era l'unica rubrica fissa. Ok. Que era un espectáculo, no sé si se dice aquí, generalista, como, ¿no? Generalista, sí, y suena. Okay. Y pop, y popular. Y que él había una. Había algún. El programa tenía algunas partes que eran fijas, como la parte que pertenecía a la. El conductor, las maletas. Sí, ¿no? Con o sea, el conductor y la. No sé cómo se llama. Me falta la palabra. Sí. El chico con la chica. Ok, el chico que conduce. No, bla, bla, bla, es el que conduce el programa, ¿no? Y el presentador sí, ¿no? y la presencia femenina que está al lado del. ¿Cómo se llaman? La zapata, eso es. E c'erano diverse all'interno, diverse format. Distintos formatos y uno fijo era sí, y un formato de estos fijo era hecho en la cárcel. Sí. Quello che facevamo nel carcere era, siccome avevamo la possibilità di trasmettere in etere ed essere raggiunti, raccoglievamo i saluti da amici dei carcerati. Quindi andavamo da amici di persone che stavano in carcere e gli facciamo dare gli auguri, le felicitazioni, insomma, facciamo sì che la gente da fuori potesse parlare con chi stava in carcere. E come la audiencia, una parte della audiencia de esta televisione podía llegar, estaba encarcelada y ellos iban a los amigos, a la gente que tenía conocidos en la cárcel y que enviaba saludos por medio del programa a su conocido, a su pariente, amigo y en la cárcel. Sí, porque en cárcel tenían el televisor, en todas las celle tenían el televisor. Noi avevamo delle persone che facevano girare la voce dentro il carcere, quindi sapevano che c'era questa trasmissione. Un'altra trasmissione era il 2000, era il 2000, quindi era l'anno del Giubileo a Roma, tanti pellegrini venivano a Roma e facevano la trasmissione sul Giubileo. All'interno di questa trasmissione cercavamo anche noi di creare una simulazione all'interno del territorio vaticano, cercando di riprendere quella che era il modo di fare dei simulatori, cercando noi stessi di simulare all'interno del territorio del Vaticano un'azione che nel sé era la richiesta della beatificazione di Antonino Artaud. Di essere un comitato di beatificazione, è un comitato di beatificazione di Antonino Artaud. Antonino Artaud, conoscete? Sì, che bueno, nell'anno 2000 nel Vaticano per un programma y simulando un acontecimiento que era la llegada de un comité que pedía la beatificación de Antonino Artaud. Era muy serio, muy serioso. Noi quando tenemos un filmato con una parrocchia, con un tour de spagnoli che erano venuti con il prete, la croce, tutta la famiglia dietro, che sono scesi in processione e entravano in San Pietro. Tutte le domeniche c'era una parrocchia che veniva e entrava in processione dentro San Pietro. Noi avevamo uno striscione con su scritto «Viva il Papa, beato Artaud!» e entravamo all'interno delle processioni ed entravamo dentro San Pietro, in questo modo. E inoltre chiedevamo le firme con la beatificazione a preti, alle suore che ce le lasciavano, facevano riprendere e davano anche il loro contributo per la beatificazione di Antonino Artaud. Y che sì, che si introducían con pancartas con hablando pidiendo la beatificación de Antonino Artaud y que se insertaban en los cortejos de fieles que entraban en la iglesia y con esta pancarta y recogían firmas para la beatificación desde curas y monjas que firmaban y tienen las grabaciones. Okay, y ahora que queremos verlas. No, la tengo aquí. Pero dalle immagini de quello che viene fuori è che comunque te veda 50-60 personas con la croce, che si vede bene. Noi eravamo dos, però con il banner, no? Con lo striscione, con la pancarta. E così dalle immagini quello che tu puoi vedere è che 50 persone sono per Artaud, non dos, no? Sì. Questo era un modo per utilizzare lo stesso metodo che utilizzavano i simulatori di prima per rovesciare il senso contro. Dopo Candida, che è durata 9 settimane, abbiamo continuato a produrre proprio più video senza andare in onda, questo fino ad oggi. Después de esa experiencia de Candida TV de emisión, han seguido hasta hoy a producir videos, solo producción sin emisión. Abbiamo cominciato a emettere sul web. Nel 2000 non c'era ancora tanti video sul web, anzi non ce n'erano proprio, c'erano pochissimi. Gli unici formati codec di compressione erano proprietari. Abbiamo cominciato una ricerca per poter mettere sul web i nostri filmati con dei codec che non fossero proprietari, coinvolgendo in questo la comunità degli hackers, che in Italia è molto presente, è molto viva. E che empezaron a emitire in la red, en internet, y que en esta temporada, el año 2000, no había, todavía no existían codec de para comprimir las imágenes y entonces enviarlas por web, y que han involucrado en esta búsqueda de codec no propietarios la comunidad de los hackers de Italia, que era muy activa en esa temporada. Dopo un anno, nel 2001 circa, è nato il portale poi di EngVision. Conosci EngVision? New Global Vision. New Global Vision empezó a existir desde el 2001. Nació como... Eso, no sé si la palabra portal dice algo, ¿no? Un portal internet que sirve para el intercambio de imágenes. I primi luoghi dove abbiamo cominciato a mettere i nostri video online era Indymedia, che era a quel tempo l'unico portale abbastanza grande che potesse permettere la pubblicazione di video in rete in maniera libera. Ok? Sì, sì, qui sta chiaro. Adesso era l'anno 2000. Nel 2000 il network Indymedia è nato in Italia, era nato nel 1999 in Seattle e nel 2000 poi è nato anche in Italia, in occasione di un vertice dell'OCSE a Bologna. In occasione è nato il sito italiano Indymedia, ed è nato proprio per dare lo spazio per pubblicare i contenuti video che erano stati girati durante quella giornata, dei video attivisti che hanno partecipato e coordinati alle riprese, alla copertura mediatica del vertice. Avanti. Sí, que hubo una cumbre europea de la Organización del Desarrollo, Cooperación y Desarrollo Europea, y que han habido manifestaciones y que por la primera vez se pusieron en red las grabaciones de las manifestaciones. Ok. Nel 2001, che è stato un anno particolare e dove molte cose sono cambiate, noi già portavamo avanti l'idea di make your own television o del do it yourself, come già portano avanti molte comunità hacker. Nel frattempo l'abbassamento dei costi delle tecnologie ha fatto sì pure che molti cominciassero a girare i propri video con telecamere che costavano molto di meno rispetto a prima, e con le periferiche dei computer che potessero permettere l'acquisizione dei filmati e la compressione della messa online. Che okay. Nel 2001 empezaron a bajar los costes para alcanzar los medios de producción de imágenes y las cámaras más baratas y los primeros sistemas para enviar en red, que empezaban a ser al alcance de todos. Por ejemplo, en el 99 o en el 2000, en la manifestación en Roma, no c'erano videoattivisti, video persone con la cámara que andavano a grabar nelle manifestazioni. Nel 2001, por ejemplo, en Genova, era completamente piena di telecamere. Si poteva contare una telecamera ogni 20 manifestanti, magari. Questo è tutto in un anno, quindi la velocità già stava cominciando a prendere. Mm-hmm. Che hubo este cambio entre el 2000 y el 2001, ¿no? Hasta el 2000 no, a las manifestaciones casi no se veían cámaras, y ya en el 2001, el ejemplo de Génova, que había una cámara cada 20 manifestantes. Ora vado a introdurvi il 2001. Per fare questo vi faccio vedere un breve video di 6 minuti, che è un'intervista con Riccardo Dominguez del Theater of Electronic Disturbance Theater americano, che faceva parte del CAE, del Critical Art Ensemble, che abbiamo incontrato proprio nel 2000, nel 2001, abbiamo fatto un pezzo di percorso insieme e siamo rimasti vicendevolmente presi ognuno dal lavoro dell'altro. Vi faccio vedere questo video, che meglio poi ci farà comprendere delle cose successive che vi vado a far vedere. Questa interview qui di Riccardo Dominguez. Magari la vediamo, ok? Andiamo a vedere il video. The streets are dead. They are dead out of Critical Art Ensemble made a very specific and harsh rhetorical gesture. We said, the streets are dead. What we did is dopo questo incontro con Riccardo Dominguez, abbiamo cominciato a ragionare dopo quello che era il comitato di beatificazione di Antonio Artaud, a creare un nuovo personaggio che potesse intervenire sulla realtà modificandola e rendendola differente da quello che era in quel momento preciso. Si avvicinava il G8 di Genova nel 2001. E così abbiamo lavorato su questa nuova maschera. Después de la beatificación de Antonin Artaud, empezaron a pensar la creación de un nuevo personaje que pudiera intervenir en la realidad para hacer modificaciones simbólicas y que cómo se acercaba el G8 de Génova. L'idea che ci è venuta è quella di creare questo personaggio che abbiamo chiamato poi Super Video. Quello che avete visto è un personaggio vestito da arancione, con una testa in forma di televisore e con delle antenne in testa. Il personaggio è lo che si vede ahí con la cabeza di televisore, antennas e un traje supereroe. E così siamo andati a Genova con questo personaggio. Ora vi faccio degli estratti di Super Video a Genova, che non sta qui. Ecco. Prima di Super Video in Genova c'era stato in Italia un altro controvertice che era il Global Forum a Napoli, che era marzo, quindi 3 mesi prima del G8. Là abbiamo partecipato alla realizzazione del video collettivo insieme ad altri due attivisti sul racconto di quelle 4 giornate. E abbiamo prodotto lo spot che ha girato in televisione lavorando su un personaggio maschera che era, anzi ve lo faccio vedere, che era Pulcinella, di uno Pulcinella, di Napolitan Mask. No, no es pulgativo. Tiene un traje blanco y una máscara negra. Pulcinella. Sí. Es un poco ridículo, un poco trágico, ¿no? Es trágico. Se parece al Pierrot, sí, pero tiene, sí, mitad tragedia y mitad ridículo. Y que antes de Génova, se había dado el Global Forum en Nápoles. Sí, el Global Forum en Nápoles, y que había otra cumbre, ¿no? Era un altro vertice en Nápoles. Un altro vertice, il Global Forum. Sì. Dove si discuteva della carta elettronica, della patente elettronica per todos, della carta di identità elettronica. E poi sono passati 5 anni e ancora non si esiste. Y han habido peleas en la calle y mucha gente, bueno, arrestados y... Sí. Noi abbiamo realizzato il video insieme agli activistas di Napoli che racconta le quattro giornate, le quattro días del controvertice, e antes abbiamo prodotto il spot che è andato in televisioni locali per pubblicizzare il controvertice. E questo era lo spot. En las televisiones locales se enviaron antes de algunos días antes de la cumbre y de la manifestación en contra, enviaron a algunas televisiones locales este spot. ¿Quién controla Cuchinello? A Genova abbiamo portato sul video è il supereroe, è un supereroe che un dia si trasforma in supereroe perché prende una scossa elettrica con l'antenna della televisione e si trasforma in questo supereroe e camminando per la calle incontra dentro un secchio della mondezza. Vale, el superhéroe, el super video se transforma en un superhéroe tomando una, ¿cómo se dice? Una de corriente. Ahora vamos a ver, sí. Una descarga de corriente y desde una antena. Ahora vamos a ver un extracto, así, capiamo meglio. And so, super video goes to Genoa. Now it's very, it's a long video, and I'll show you another part of the video. Igo fa un viaggio verso Genova dove incontra gente per strada, chiede informazioni, si fa dare, raccontare. E fa delle azioni che non è scritto. Después Genova nel 2001 succede che l'11 settembre c'è le torri che vengono giù. Anche in quell'occasione il nodo di Indie Media New York è riuscito a realizzare un video nei giorni subito successivi a quello che è successo alle Torri Gemelle. Nel giro di pochissimo tempo lo girano, lo montano e lo cominciano a distribuire attraverso il network. Noi riceviamo la copia in Italia, la traduciamo per... Oddio, via. Lo traduciamo e lo distribuiamo attraverso un giornale italiano, il Manifesto, e quindi è distribuito in tutte le edicole in Italia. Yes. Ok, so it goes on. Oltre che con The Hackers, Kennedy ha sempre avuto grosse relazioni con quello che era il mondo antiproibizionista, delle battaglie legate all'antiproibizionismo delle droghe. Proprio su questo, sempre tra il 2001 e il 2002, abbiamo prodotto degli spot che riguardano l'antiproibizionismo legato soprattutto alla marijuana. Nel centro sociale, nello Squad Center a Roma, da dove molti di noi venivano fuori, è cominciata nel 2001-2002 la semina della marijuana. E abbiamo cercato attraverso questi spot di far sì che si implementasse la piantagione di marijuana nelle case di tutti. Ok. Ops, fermo tutto. It's very late. But we are just at 201 al 2001. Dopodiché, che succede? Appunto, diciamo prima di Engine Vision, nasce il portale Engine Vision, che è un grande sito di. Vediamo se c'è la rete. NGVision è un grande portale dove chiunque può approdare il proprio materiale video. Ci sono delle le specificazioni, non possono essere pubblicati video ovviamente a sfondo razzista, fascista o sessista. La nascita di NGVision ha fatto sì che molti video attivisti cominciassero a confluire in un unico luogo, e quindi anche lo scambio di materiale, la diffusione di materiale, almeno per chi faceva video attivismo, cominciò a diventare molto più semplice. Magari prima c'era chi a Bergamo faceva il suo video, chi a Milano, chi a Roma, però non si riusciva a incontrare. NGVision dava la possibilità a chiunque in Italia a vedere il materiale che veniva girato da qualcun altro in Italia. Ma non solo, perché mano a mano su NGVision hanno cominciato a caricare il materiale soprattutto dall'America Latina. È diviso per categorie, per autori. Qua ci sta, c'è l'archivio completo. L'archivio completo ci sono circa, penso, su intorno a 70-80 giga di video. Ok, questo è NGVision. NGVision, chiunque può andare sopra, pubblicare il suo materiale. C'è un fuoco molto semplice da compilare per spedire il proprio materiale, una volta compresso. E nel giro di una settimana, più o meno 10 giorni, il video viene pubblicato sulla pagina principale, sulla home page. Nel 2002, giusto? Vorrei dire sbaglio, nasce invece il network Italy Street, che è qua tra l'altro molto più informato di me, almeno sugli sviluppi iniziali, ora più o meno lo so. Nasce il network Italy Street da Bologna, grazie a Orfeo TV, che è un amico emittente, che ha cominciato a trasmettere il segnale dal tetto di un palazzo per, diciamo, il più vicino vicinato, insomma, per il proprio vicinato, per via. Dopo l'Orfeo TV cominciano a nascere molte antenne in Italia. A un certo punto, nel momento di grande crescita, sempre inizio tra il 2002 e il 2004, a un certo punto si riusciti a censire all'incirca 50 delle iscritte, più o meno, che trasmettevano. Cioè, addirittura chi trasmetteva, c'era Telecitofono, per esempio, che il nome dice tutto. Ci stavano altri che hanno cominciato a potenziare i trasmettitori. Diciamo che le difficoltà legate allo sviluppo delle telescritte sono molto legate alla potenza in uscita e all'effettiva visibilità della trasmissione. E questo problema tecnico ha fatto scendere molto fomento, no? Tutta quella eccitazione che c'era all'inizio di questo fenomeno, molta gente che provava a fare la propria televisione cercando di trasmettere, alla fine, vedendo i risultati scarsi che venivano dalla trasmissione, si lasciavano prendere parecchio lo sconforto, e quindi molte esperienze sono morte così. Penso che sì. Ora come ora, comunque, la unica telescritta che continua a trasmettere e lo riesce a fare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con una discreta potenza e è visibile all'incirca quasi nella metà della sua città, è un'esperienza di Napoli che si chiama Inspo. Ed è un buon collettivo perché ora ha elaborato anche un sistema free software con la gestione del palinsesto da remoto. Ok? Palinsesto, capito il palinsesto? Palinsesto è la programmazione da remoto. Quindi a chi, per esempio da Bilbao, io posso cambiare in real time quello che va in onda a Napoli. Perché il palinsesto è condiviso ed è online, e la macchina funziona proprio da remoto, quindi chiunque da remoto può collegarsi al palinsesto e cambiare ciò che c'è in onda. Lo stesso programma permette anche di mandare news in tempo reale, così come si può. No, ci sono altre che mettono, però le immagini diffonde. Molte delle street hanno continuato a esistere come gruppo di produzione, no? Producono video, però non trasmettono nell'etere. Però hanno dei punti di visione in città, vari circoli, ad esempio, dove riescono a organizzare delle proiezioni del materiale che producono. Però si sono trasformati in produttori piuttosto che in emettitori. Faccio giusto vedere così. Qua ci sono dei video che parlano dei Chain Workers, che è la catena di precari, gruppo organizzato di precari di Milano, la rete metropolitana del reddito di Roma, che è sempre il precario di Roma, e poi due video su due centri sociali di sport che in quegli anni sono nati a Roma, che erano Social Strike e Loa. E poi comunque ci sono diversi video, soprattutto sono una ventina di video sul precariato e sul lavoro femminile. Poi lo lascio qua, questi video ci potete vedere, insomma, ora però vado avanti. Dopo questa esperienza, questa esperienza è andata abbastanza bene, tant'è che l'anno dopo abbiamo fatto lo stesso esperimento, però allargando la partecipazione a tutta l'Europa. E sulla stessa base di questi due video, quindi sempre parlando sulla precarietà, abbiamo realizzato quest'altro video che siamo precari, però è fatto in quattro lingue, c'ha contributi che vengono un po' da tutta l'Europa, ma anche dalla Corea, dall'America, dall'Argentina. Ok? E do another video. Che è questo. Senti, faccio, magari lascio qua, poi ti vuole vedermi le video però. Because it's very late now. Questo è il 2005. L'attitudine che abbiamo sempre avuto nel cercare di mettere in rete varie esperienze ci ha portato poi l'ultimo anno a produrre due documentari, nell'anno scorso due documentari intorno ai confini italiani del nord-est. Uno riguarda la delocalizzazione delle imprese del Triveneto italiano in Romania. Segundo incontro de cibercultura crítica y nuevos medios de Bilbao. Del 10 al 18 de noviembre del 2006. Cibercultura crítica y nuevos medios. Cibercultura y cómo ser cultura. Cibercultura. Reality hacking. Nuevos medios. Net radios. Biotecnología. Software libre. Activismo mediático. Cultura hacker. Comunidades virtuales. Science arts. Robótica. Blogosfera.